America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24. E cominciamo oggi intanto con un paio di notizie legate al Michigan. Alla fine Santorum e Mitt Romney si sono spartiti i delegati perché hanno raggiunto ciascuno 14 delegati, quindi parità sul fronte dei delegati. Resta comunque l'effetto traino della vittoria per Mitt Romney. Un paio di altre notizie: molto bene le vendite della Chrysler, sappiamo che non sono andate bene quelle della Fiat, ma la Chrysler ha fatto più 43%. Però oggi vorrei dedicare la trasmissione ha un problema, direi, piuttosto serio e impegnativo. Sentiamo il presidente Barack Obama. America is determined to prevent Iran from getting a nuclear weapon and I will take no options off the table to achieve that goal. Avete sentito Barack Obama durante il discorso dello Stato dell'Unione, che dice che tutte le opzioni sono aperte nei confronti dell'Iran. Vorrei parlare oggi di Iran. Perché? Beh, intanto perché oggi ci sono elezioni in Iran, ci sono le elezioni parlamentari, potremmo avere qualche sorpresa. Sappiamo che il 5 marzo ci sarà il primo ministro israeliano Netanyahu in visita a Washington, e sappiamo che Netanyahu ha già chiarito che lui è pronto ad andare per conto suo se gli Stati Uniti a un certo punto si tireranno indietro, e dunque ha già nel cassetto un possibile attacco contro l'Iran. Il tema è caldissimo. Ho con me ai microfoni di America 24 Ed Ludwig, col Center for Strategic International Studies, CSIS, a Washington, consulente dell'amministrazione. Buongiorno Ed. Buongiorno. Ecco Ed, dunque cominciamo subito con una domanda a caldo: secondo te gli israeliani attaccheranno l'Iran o no? Loro sono pronti a attaccare nella loro maniera, cioè non un'enorme offensiva ma una roba di una notte, se l'amministrazione Obama non gli dà la garanzia che o gli iraniani fermano o se no gli americani li fermano. Ecco, abbiamo sentito che il presidente Barack Obama nello Stato dell'Unione ha detto che tutte le opzioni restano sul tavolo, però sappiamo anche che Obama non è il presidente che manda 4.000 sorties, 4.000 missioni aeree per fare bombardamenti a tappeto, no, che potrebbero fare molte vittime. Il presidente ha anche detto che gli Stati Uniti non permetteranno all'Iran di accedere alle armi nucleari, quindi lui si è già impegnato, e Netanyahu quando viene qui dirà: ok presidente, lei si è impegnato che loro non possono avere il nucleare, noi attacchiamo, se voi non dite che voi stessi farete il vostro attacco, in caso che gli iraniani non accettino di smettere di arricchire l'uranio al 20% e di avere gli ispettori dell'Agenzia Internazionale Nucleare lì per verificare. Le sanzioni stanno cominciando a dar molto fastidio all'Iran, l'economia iraniana è in difficoltà, e dunque sono sanzioni che funzionano, che in qualche modo stanno facendo sentire il morso dell'isolamento. Secondo te è possibile che con queste sanzioni alla fine, da qui a qualche mese, l'Iran dica: benissimo, guardate, basta, io rinuncio e riapritemi i confini? Sappiamo, come giustamente hai detto, che le sanzioni stanno funzionando economicamente, è da vedere se funzionano per il loro scopo. Il loro scopo non è di impoverire l'Iran, ma di persuadere il governo iraniano di smettere di arricchire l'uranio al 20% e aprire per le ispezioni. Fino adesso hanno sofferto senza reagire. Siccome il livello di sofferenza sta aumentando ogni giorno, è possibile che loro decideranno di accettare la richiesta della comunità internazionale, ormai dell'Unione Europea, degli Stati Uniti, del Giappone e di molti altri paesi, anche se non delle Nazioni Unite, perché lì sono protetti dai veto degli altri. Ecco, quindi c'è un equilibrio tra sanzioni e possibilità d'attacco, però il tempo corre, ci sono elezioni in America. Qual è secondo te l'equilibrio temporale? Quanto può aspettare Israele e quanto può aspettare Obama? Se all'incontro della settimana prossima Obama dice a Netanyahu: ok, ho detto che non possono fare il nucleare e se non si fermano li attacco io, allora gli israeliani non attaccano. Se invece Obama dice: vediamo, tenteremo, proveremo, allora gli israeliani diranno: no grazie, andiamo noi. E quando vanno? Subito o fra due mesi? Ovviamente non lo sappiamo. Credo che devono andare rapidamente, stiamo parlando dentro massimo tre mesi. Ecco, quindi c'è un rischio però a quel punto di destabilizzazione, perché come reagisce il mondo islamico a questo attacco? Prima di tutto il mondo islamico, tre quarti sono sunniti, sempre più chiaramente sono su piedi di guerra contro i sciiti. Li stanno uccidendo in Siria, li stanno uccidendo in Pakistan, in Iraq, in tutti i paesi arabi, sono adesso dichiaratamente contro l'Iran, e quindi la reazione non è del mondo islamico. Parliamo di elezioni, perché ci sono delle elezioni. Può cambiare il quadro dal punto di vista politico interno? So che insomma Ahmadinejad potrebbe emergere debole da queste elezioni. Più che debole, perché sono elezioni parlamentari e ci sono già voci che se vincono i suoi nemici, che oggi sembra molto probabile, lui può essere rimosso. C'è una procedura come impeachment americano per rimuovere il presidente. Quindi, una volta rimosso, l'Iran ritornerebbe nella politica, invece di sbraitare e urlare, ritornare alla politica più avverbalmente più moderata, e poi le cose diventano forse meno chiare ma meno irritanti. Quando ci sarà la primavera, il ritorno, diciamo, della primavera rivoluzionaria in Iran? In fondo tutto è cominciato in Iran. Noi parliamo sempre di Tunisia, però la prima rivolta popolare c'è stata in Iran, poi soppressa. Si pensa che ci sarà prima o poi di nuovo un movimento di rivolta? Dopo il 2009 questo non è più un governo che fa finta di essere democratico, è un governo dichiaratamente di repressione. Per fare la rivolta ci deve essere un ulteriore cambiamento politico. Adesso sono divisi, Khamenei e i preti dichiaratamente contro Ahmadinejad e i suoi seguaci. Adesso che sono divisi è possibile che le cose si smuovano, ma la realtà è repressione efficace. L'abilità di rimanere al potere. L'impatto sulle elezioni americane di un possibile attacco contro l'Iran, qual è secondo te? Rafforzerebbe Obama? È un attacco israeliano, inaudibile, invisibile, pochi aeroplani, poche ore durante la notte, poche ripercussioni, poche reazioni. Quasi non se ne accorgerà il pubblico iraniano, quindi il governo iraniano non è obbligato di rumorosamente reagire. Tutto questo, l'impatto può essere marginale. Se invece è un attacco americano, la prima cosa che succede è che ci sarà sicuramente un terzo partito a novembre, perché Ron Paul, quelli che sono contrari a un'ulteriore guerra, saranno dietro Ron Paul, e quindi Obama avrà il problema di poter perdere le elezioni, perché Ron Paul gli porta via 5%. Quindi tutto sembra puntare a che, se ci deve essere un attacco, è meglio dal punto di vista di Obama che sia fatto solo dagli israeliani. E questa è la cosa che si stanno rendendo conto, che i rischi sono molto meno. È una questione tecnica, o se vuoi burocratica, cioè Obama non ha l'opzione di un attacco leggero fatto durante la notte. L'unico attacco che il Pentagono è disposto a offrire a un presidente americano è un'offensiva all'americana, con migliaia di voli per lanciare migliaia di ordigni contro ogni cannone antiaereo, ogni missile, ogni base aerea, eccetera, e poi attaccare il nucleare, anche lì con centinaia di bombe. Il ragionamento israeliano è che comunque si può solo avere un ritardo, non si può eradicare, solo ritardare, e quindi non bisogna fare il grande attacco. Gli americani non hanno l'opzione di fare un piccolo attacco, e quindi c'è solo l'attacco grande, che porterebbe molte ripercussioni, incluso la candidatura di Ron Paul. E Ron Paul può fargli perdere la Casa Bianca. Russia e Cina stanno un po' a guardare, rappresentano un problema per l'America. Come vedi il loro ruolo vis-à-vis l'Iran e soprattutto il loro ruolo vis-à-vis la leadership globale che gli Stati Uniti cercano di continuare ad esprimere? I russi continuano a obbligati a essere anti-americani, anti-occidentali ogni giorno, perché se no non c'è Putin, non può dire che protegge i russi contro questi cattivi occidentali. Indi sono completamente opposti, hanno dichiarato che sono opposti a qualsiasi attacco contro l'Iran e continuano a parlare di negoziati. I cinesi invece sono molto più defilati. Per i cinesi questa è una cosa molto più lontana, molto meno pesante. Per i russi è molto pesante, perché loro hanno fornito il reattore nucleare, quello buono, quello non pericoloso, di Bushehr, e soprattutto loro non vogliono che la gente operi con forze militari nella zona adiacente alle loro frontiere.